Allora, parlo con la Zanzara, Radio ciao 24. Belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che tra l'altro... Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, no, niente no. Male, la Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Se la paladina delle quote rosa è il presidente della Camera, voglio tutti uomini in Parlamento. Se una dei portabandiera delle quote rosa, cioè del ghetto per le donne, una donna, un uomo, 50%, 50% o 60-40, stabilito per legge, è il presidente della Camera, Boldrinova, Boldrini, allora preferisco un Parlamento in cui ci sia per legge, è ovviamente una provocazione, il 100% di uomini. La signora Boldrini, incurante, caro Parenzo, incurante, sì, no, ascolta bene, incurante delle altre decine di volte in cui la satira ha giustamente colpito esponenti femmine del centrodestra, spesso esaltando, come fa di solito la satira, punteggiando i loro difetti, le loro idiosincrasie, e le loro fissazioni, le loro caratteristiche fisiche. Non abbiamo sentito una parola da parte della signora Boldrini. Questa volta, beh, dice che la satira nei confronti del ministro Mariana Boschi, la quale giustamente se ne fotte, si tiene, no, si tiene un po' lontana da queste polemicucce da quattro soldi. Dice: dispiace la satira sulla Boschi. Dice anche sulla Pascale, adesso. Ora. Mezzo una via. Allora, a me è dispiaciuto vedere la satira di Maria Elena Boschi. Le è dispiaciuto perché trovo vedere che la settimana prima anche quella su Francesca Pascale? Allora, quella non l'ho vista, ma se aveva gli stessi accenti così sessisti, probabilmente sì, anche quella mi sarebbe dispiaciuta. Probabilmente sì. Probabilmente. Cioè, è una cosa incredibile che un presidente della Camera si presenti davanti alle telecamere per parlare di un pezzo di satira dentro una trasmissione. Ma chi se ne fotte? Il presidente della Camera deve tagliare i nastri, dire poche parole, condurre i lavori della Camera e basta. Merita una riflessione questo. Ma non merita una riflessione, nessuna, la riflessione nessuna. È già stata fatta, signor Boldrini. Su questo lei ha ragione, signor Cruciani. Il compito della Camera devono essere tre. Primo, espellere Bonanno, questo per definizione. Gli unici compiti devono essere quei. Uno, due, ogni tanto tagliare qualche nastro, possibilmente in Italia. Tre, certo. Limitare i viaggi all'estero. Ecco, questo secondo me è la quattro, condurre i lavori della Camera. Non sia molto presente, tra l'altro, la signora Boldrini. Però questo non c'entra con le donne non in c'entra. Parlamento, secondo però me. Però dice no alla satira sessista. Io dico una cosa: se le quote rosa, la massima rappresentazione della presenza femminile oggi in Parlamento, è il presidente della Camera, perché è la terza carica dello Stato. Certo. Se questa è la massima rappresentazione femminile, oppure quelle che oggi sono andate vestite di bianco come se ci fosse un'emergenza, oddio, vestite di bianco, non ci vogliono dare le liste, le quote. Ma hai difeso questo, quello lì, questo amico tuo mio amico. Che ho difeso? Hai difeso quelle che Buonanno, ma che si è ma no, perdere. Che ogni Buonanno. Giorno fa una ma carnevalata. Ma è un grande comico, è un fa grande... una carnevalata. Quando delle donne si vestono di bianco per testimoniare la questione, ma quelle si prendono sul serio, questo è il punto. C'è da indagare su questo. Boldrinova ancora. Ci sono tanti modi per fare satira, ma quando si cede un po' il sessismo, la satira diventa qualcosa di altro, e allora io la apprezzo di meno. E vabbè, abbiamo capito, e chi se ne frega la risposta qui della Zanzara, ma che viene probabilmente da tutta Italia, dal popolo e la radio. Tutto, e non lo chi so, però. Se ne frega, dovremmo formatizzare una cosa del genere, e chi se ne frega. Beh, qualche ambulanzina va chiamata pure il Berlusca qui, amico mio. Tornato, intervenuto lontano. Il giorno di domenica, cioè ieri, alla riunione di tutti i club Forza Silvio in Sicilia. Beh, già è difficile da spiegare, cioè si sono riuniti a Taormina, credo, Parenzo, tu questo non lo sapevi? Tutti no. I club Forza Silvio della Sicilia, capito? Capito? Club capito. Forza Silvio. Sì. Organizzati dal signor Gibino, possessore di Ferrari. Sì. Vabbè. No, vabbè, non c'è niente di male a possedere una Ferrari. Non siamo pauperisti, cioè non siamo gente no, che vabbè, cioè, se, vuole... se l'è comprata pagando le tasse fino all'ultimo 6 euro, benissimo. Allora, Berlusconi dice: abbiamo fatto più cose noi nei miei governi che tutti i governi dal 48. Questo però chiami tu o chiamo io? No, questo però qualche chiami tu? Ma l'ha già detta ma questa chiami roba. Tu, ma come si dice, quando uno reitera significa che ci vuole qualche, un dottore buono, Possiamo, credo, affermare in buona coscienza che noi con i nostri governi abbiamo operato bene e non abbiamo timore di dire che in proporzione nei 9 anni dei nostri governi abbiamo realizzato più cose noi di tutti insieme i 50 più governi che ci hanno preceduto dal 1948 ad oggi. Chiami tu? È già partita da Roma direttamente. Da Roma. Te la passo, presidente. Presidente, la mia collega Concetta Concettina. Presidente, io sono orgogliosa e Campassi 100 anni voterò sempre Forza Italia! Forza Italia! Grazie, grazie Concetta! Forza Italia! Grazie! Un bacio! Un grosso bacione! Vengo! Vengo! Grosso! China spettacolare, Questa bisogna metterla a confronto con la signora Anna Arella. Ma questo è buono, però questo è buono. La signora Concetta, avevo sentito la signora Concetta. Sì. un grosso bacione. Perché fai pigli per il culo quelli che parlano siciliano? Non ho capito. Ma io ho un nonno siciliano. Alfano ha fatto una figuraccia con l'omicidio a Lecco, poi te la racconto. Ha fatto una figuraccia, amico mio, il ministro degli interni, poi te lo racconto bene. Ti faccio sentire due domandine, solo due, di Fazio. Le domande serie Le domande pungenti di Fazio a Renzi ieri sera. L'ho visto live. Senti, per esempio, sulla canzoncina dei bambini. Le sulla canzoncina puntute, dei bambini. Devi dire. Le puntute. Domande puntute, bravo. La canzoncina Facciamo un salto, battiamo le mani è una cosa che lei sapeva, si aspettava, che impressione le ha fatto quando no, io lì? Sono rimasto sulla legge elettorale. Domani il voto sulla legge elettorale è slittato, deve essere venerdì. Lei conferma che è la volta buona? Conferma che è la volta buona? Che deve dire? No, non è la volta buona, ho sbagliato, ho fatto tutto. Mi può raccontare i suoi successi di questi giorni, Renzo? Ma abbiamo con noi il vero leader della destra italiana, perché la destra italiana, quella che vive nelle sue, no? Quella della Meloni, dici? Sì, no, ma in generale la destra è il vero leader, però l'unica persona rimasta baluardo la della Meloni. Destra italiana. No, Meloni. Oh, quella è la leader di Fratelli d'Italia. Eh beh, ce n'è un'altra, donna Assunta Almirante, buonasera. Buonasera a lei, buonasera, grazie per il leader della destra. Beh, diciamo la io verità. Io sono sempre stata, non mi sono mai spostata altrove. Quello è vero, però lei, diciamo la verità, è rimasta l'unica ormai leader riconosciuta della destra, diciamo. Della destra. Gli altri che so, tutti sono mezze cartucce, diciamo la verità. Mezze cartucce no. Beh, lei la Meloni a volte aveva detto è poco preparata, non è che ha cambiato idea. No, ha detto è preparata, non è poco. Bah. Ho detto meno male che ce n'è una preparata. Dipende dai momenti. Comunque, siamo avanti. Come vai innanzitutto? Bene, molto bene. Bene, senta, ma Fini ha detto che quelli che si sono riuniti l'altro giorno a Fiuggi sono dei bambini viziati. Lei come vuole rispondere al signor ma Fini? Ma poverino, bambini viziati, semmai è stato lui il viziato, Perché, dice lei? Perché lui è cresciuto col vizio, mentre invece gli altri è stato imposto, questi invece se la sono lottata, perché poi oltretutto diciamo la verità, sì, la Meloni si è cresciuta nel partito, sì, era segretario dei giovani, quindi cioè lui è stato nominato da sua lui no, lui è stato proprio creato, sì, creato come se fosse stato, che dico, fortunatamente non c'è stato incesto, però non è stato creato da questo punto di vista, però che è stato dato, proprio voluto da suo marito, è stato Giorgio Almirante, l'ha creato, e lui l'ha ricompensato molto bene, benissimo, con un tradimento straordinario subito ancora fermi, vabbè, sono roba, sei roba vecchia ormai. Senta, però ormai è roba vecchia, non roba... è manco il caso di parlarne, no, però è Fini che ne ha parlato, no, dicendo che vabbè, ma lui certamente siccome ancora è giovane non voleva mettersi, non pensava, credo, che finisse così, perché lui non conosce moltissimo che cosa sono gli uomini non del movimento sociale, ma gli uomini italiani, le donne italiane. Ah, non sa niente lui, dice. No, non sa nulla, lui è analfabeta. Analfabeta addirittura. Sì. Ma perché è così dura Donna Assunta col signor Fini? Ma ha ragione, che bisogno c'è di uscire? Che vuole che lo indoro dopo quello che ha fatto? Ma scusi, ma tra l'altro ha parlato... Ma scusi tanto, è stato cosa benedetto. Ha fatto? Ha portato voluto, un partito... Voluto, creato, e adesso lei pure vuole che gli faccia l'incenso? No, no. Scusi, cara, perché... allora, scusi, io non sono abituato a dare incenso. A me piace l'odore dell'incenso, oltretutto. No, sommessamente, signor Assunta, le posso ricordare solo che il signor Fini ha portato il partito, il Movimento Sociale, che è 4%, l'ha portato grazie ad AN addirittura all'11%, vabbè, poi però, di più poi grazie però, a Fini, lei dovrebbe essere dove l'ha portato? Dove l'ha portato? A prendere il 12-13%. A prendere anche la doppia cifra. Ma faccia la cortesia, non mi faccia ridere. Col signor Almirante, eravamo fermi al 4, amica mia. Ma poverino. Cioè, ma adesso il signor Almirante non ha fatto nulla. No, lui certo, ha trovato la casa, le sedie e anche il letto, la camera da letto. Ma che dice? Non dica fesserie, guarda. Scusi, non mi dica fesserie. Ma perché Fini ha detto che questa riunione della destra, la Fratelli d'Italia e compagnia, dice che è una farsa? Perché? Ma perché evidentemente non c'è lui, no? È talmente semplice. Cioè non c'è, dunque gli erode un po'. Ma senza dubbio, ancora non era in età di andare in pensione. E no? Che fa adesso, secondo te? Come passa le giornate? Sta bene, non ha nulla da preoccuparsi dal punto di vista finanziario, credo che non ha nulla da preoccuparsi. Perché? Ha pure le case a Monte Carlo, quindi va bene. No. Cioè sta bene da quel come punto di vista, non si deve preoccupare. Quindi se lei trova che oggi siamo in un periodo in cui la povera gente si spara perché non sa come pagare debiti da 2 milioni di euro... Lei immagina uno che invece gira con una Ferrari su Monte Carlo se si può preoccupare di altre cose. Ma no? Quello era il cognato però. Vabbè, è il cognato che vive a Monte Carlo, ma vive a Monte Carlo perché c'era la casa del Movimento Sociale Italiano. Per cui non può dare lezione a nessuno, dice lei Fini. No, assolutamente no. Farebbe bene a stare nel silenzio perché è l'unica cosa che gli potrebbe fare onore. Well, now, brava Concetta, se poi Vincenzo mi dai il tuo numero di telefono ti chiamo. Sì, signor. Va bene, presidente, provvedo io, poi lo prendo anche io. Presidente, il mio numero è in campo un bel 0942. Concetta, 86 anni, dai il numero a Berlusconi che lo chiede. Siamo qui, la Zanzara, popolo della radio, con noi Donna Assunta Almirante, il vero leader della destra italiana, durissima nei confronti di Gianfranco Fini, ma l'intervista di questi giorni, caro Parenzo, non può esserti sfuggito, però. Forse sì, se non hai fatto nulla in questo fine settimana, è quella di Francesca Pascal al Fatto Quotidiano. Pare che Silvio, tra l'altro, sia molto arrabbiato, perché dice come hai fatto un'intervista ai nostri principali nemici, il Fatto Quotidiano, ma in questa molto intervista... Molto interessante però, perché lì c'è l'amore vero lì, spiegala bene, perché lì c'è l'amore vero. Tutti i giorni gli dico sposami e rinuncio ai soldi. Sono pronta a metterlo per iscritto. Ma non si può rinunciare ai soldi quando uno si sposa. Donna Assunta, anche se uno lo volesse, non può rinunciare. Non può, nella maniera assoluta. Cioè, c'è la legittima, no? Come si dice? C'è la legittima per legge. Che però la può anche dare. Sì, d'accordo, poi la può cedere dopo. La può cedere dopo, ma prima l'accetta. Prima la deve prendere per forza, cioè non è che tu puoi rinunciare di tuo. No, per forza no, non c'è niente per forza. Cioè no, per forza, cioè tu non puoi... C'è un testamento che praticamente legalizza la posizione, no? sì. Però andando con il notaio, dove praticamente interverranno poi anche i figli per quello che gli viene lasciato, può benissimo dare ad uno dei figli o a tutti i figli quello che praticamente per legge gli tocca. Sì, però per legge gli tocca comunque. No, per legge gli tocca nulla, per legge la legge glielo consente e gli tocca per legge, però esatto. Lei può praticamente darla tranquillamente. Contestualmente non rinunciare, contestualmente. Ma una specie di donazione si chiama. Ma lei ci crede a questa roba qua? Sì, sì, sì, sì. Cioè lei ci crede che la Pascale è pronta a rinunciare a tutto pur di sposare Berlusconi? Ma io penso di sì, perlomeno perché sa benissimo che questo non avviene, nel senso che se glieli lascia, se li tiene. Se li tiene, secondo me. Direi. Però fa la bella figura, in maniera che lei facendo queste promesse, sì. Ecco, e le figlie l'accolgono con grande simpatia, affetto. E poi si tiene tutto, dice lei. E poi si tiene tutto, è normale, no? Lei ne sa una più del diavolo, da nessuno, non c'è niente da fare. A meno che lei non abbia già un patrimonio talmente tanto grande. Ma che da patrimonio? Pensare che gli possa, ma non credo. Ma quale patrimonio? E appunto, quindi ma, sarebbe proprio una monaca vestita questa. Ma sì, ma nessuno, non ci sono. Senta, ma... non ci sono monaca vestite, non c'è. Senta, aspetta, aspetta, Parenzo, adesso arrivo. Scusa, sì. Le quote rosa, lei che è una signora, non ha avuto mai bisogno di quote rosa, lei ha sempre fatto quello che Io ho lavorato, ma le quote rosa sono le famose quote del latte, non altro. Cioè? Essendo io una proprietaria terriera, ecco, ed avendo avuto stalle con moltissime mucche, certo. E avevo anche la stazione di monta, sì, pure. E quindi a un certo momento, quando è arrivato il caro Europa, sì. E con le famose quote rosa, ho dovuto praticamente lasciare tutto, perché se quello mi consigliavano di consegnare, che le posso dire, 10 litri, 20 litri, 30 Vabbè. Litri, una sola mucca me ne faceva 36, dico io che mi faccio, i nennelli potevo dare tranne che adoperarli per fare dei formaggi. Per cui? E per cui a questo punto ho dovuto chiudere le stalle. E le quote rosa lei è d'accordo o no alla fine? Ma no, ma quale quote rosa? Nemmeno le quote verde ci sono, è tutto un modo di pensare. E perché queste no? donne vogliono i parlamentari, si vestono di bianco, vogliono le quote garantite, le parlamentari? Si vede che alle loro sono vere. Le mie non erano vere affatto, non me li davano, a loro gliele danno. Ma perché? Ma scusi, secondo lei è giusto che le donne siano al Parlamento per legge, non per merito? No, io non approvo questa legge che si fanno nominare, assolutamente no. Io sono per l'uomo o la donna che leggo io, che regge il popolo, non che vengono nominati. È molto comodo vogliono essere mettere nominati, in lista, no? Vogliono mettere in lista un uomo, una donna. Loro dovrebbero fare i candidati che si vogliono candidare, avere il coraggio di mettersi in lista e di essere nominati dagli italiani. Beh, quelle le preferenze, se non li nominano, con le preferenze, però siccome non gli fa comodo preferiscono così. E la Boldrini le piace? Ma io non la conosco, quindi non posso dire nulla. Quando la vede in televisione, che pensa? Ma io la vedo poco. Non la vede, eh? No, non la vede. Sai che gli piglia un bello sturbo se la vede. Ho tante cose da fare. Parenzo, vuoi chiedere qualcosa alla signora? Volevo capire, senza che si arrabbiano tutte le volte, volevo capire se ha trovato il busto che avevano rubato del marito. Ma che adesso fra una ventina di giorni penso invece che mi arriva il busto che ho fatto fare di marmo. Beh, questo è importante, ha fatto fare un altro ancora. L'ho fatto fare a Bari. E quindi aspetto che sia pronto e faccio una grande manifestazione con la speranza che non si prendano quello di marmo. Ma come una manifestazione? Ma dove lo metto? Ma dov'è sta manifestazione? Dove era? Ma cosa fa una manifestazione col busto? Ne mette un altro. Certo, faccio la manifestazione non al busto di Giorgio Almirante, rendendogli onore alla tomba dove lui ha. Vabbè, d'accordo, manifestazione, farete una cosa in famiglia, questo per carità. Faccio dire una messa. Vabbè, faccia la messa. Alla faccia dei ladri dicendogli che io ho rifatto il busto. Gusto, Parenzo, abbi il coraggio di dire quello che pensi sul Milano. Ma no, dico che per me, per carità, il lutto della la famiglia deve essere come dire, tutelata, no? Quindi voglio dire, lui, lei, giustamente, la memoria del marito. Certo. Dopodiché, a livello nazionale, uno può avere il giudizio che ha sul signor Almirante, no? Quindi, voglio dire, dal punto di vista politico, uno ma che certo, ha scritto sulla difesa della razza. Lei è autorizzato a pensare, grazie, a dire quello che gli pare. E io sono autorizzato a ricordare. Perché a me non me ne fregherebbe niente di quello che dice. Siamo d'accordo. Al netto di tutto, vorrei ricordare che Almirante è stato quello che ha fatto parte delle leggi razziali, ha scritto sulla difesa della razza. Ma non faccia ridere, a 17 anni, lei che adesso sarà un barba blu, un vecchio. Ma quale. un vecchio qualsiasi può condannare un giovane di 17 anni che si stava per prendere la licenza c'erano liceale, giovani diversi gliel'ha fatto scrivere, tenga presente che c'erano titolo, cara dei giovani che stavano dall'altra parte ma non mi faccia ridere ma non mi faccia ridere i giovani partigiani di 17 anni c'erano ad esempio, comunque vabbè. Fate schifo. Sì, lasciatevelo dire. Ancora a casa. Brutta nel mio spazio sotto salice, salice. Non stare lì così, mettiti comoda, comoda. Sull'erba metto spesso il psicologico. Parenzo, Formigoni se la prende con Crozza, perché poi non è che a prendersela con quelli che fanno satira sono solamente quelli di sinistra, anche Formigoni. Io francamente non capisco perché non l'ho vista la cosa. No, straordinario era questo, questa rievocazione della grande bellezza. Ecco, ma secondo te Crozza è, voglio dire, ha esagerato con Formigoni? Cioè, è stato... cioè la satira non è che no, ma lascia perdere, cioè, ha fatto delle valutazioni politiche che non erano satira, non lo capisco. Ma no, io, è Razzi che dovrebbe dire, Razzi, allora scusa, che lo rappresenta però... sempre come un troglodita. Adesso sentiamo però. Crozza su Formigoni, dai. Quel bar pazzesco che ti ha messo sul Robby? Ma certo, il Robby è un signore. Per queste cose non bada a spese. Guarda, alle sue spese non ci bada mai. Cretina! Apaga l'amore e comincia! Apaga l'amore e comincia! Senta, io... Ho trovato una ricevuta! Ah, cos'hai trovato? Una ricevuta! Eh sì, eh. È impossibile. Infatti... Non può essere una ricevuta perché io non ho mai avuto una ricevuta perché poi ci conguagliamo. Infatti lei ha sempre detto che le ricevute... Zetta, sì, vediamola. Ah no, questa è un'ingiunzione di Richmond. Cioè? Il dottor Formigoni è pregato di smetterla, di ledere l'immagine del nostro marchio pavoneggiandosi con indosso i nostri capi. Bene... Si prega quindi di restituire il cappotto a lei prestato. Quindi deve restituirlo? Ma si figuri, sa quante lettere ho di queste? Pensi che quella della cosa. Ma in realtà Formigoni è arrabbiato soprattutto per il monologo iniziale di Crozza in cui attacca, dice è inutile, vado a lavorare per Richmond. Cioè. Ma noi lo paghiamo 20.000 euro al mese, questo qua, per fargli fare il testimonial a John Richmond. Ma uno così perché sta lì? Dai, è inutile, dai. Per 60 milioni di italiani è inutile. Cioè, magari è utile per John Richmond, non lo so. Comunque, ma che vada a lavorare per lui. Vai a lavorare per John Richmond. Questo passaggio qui è un po' più della satira, eh? Qui c'è proprio Crozza che va giù duro contro Formigoni, dice è inutile che stia al Senato, faccia il testimonial per Richmond, eccetera. Sì, che... ma la satira no, ma va bene però, tutto, per me va bene tutto. Dire, se le vignette se Formigoni, di Vavolo sono se... un editoriale. No, no, però se io dico, se io dico al di là dell'imitazione, no? Cioè non faccio più l'imitazione, cosa che non faccio. Sì, e mi metto a dire Formigoni deve andare a lavorare per Giorgio. Ma chi nuoce questa roba qui? No, cioè sposta voti, la domanda non è sposta mai, voti. Non querelerei mai. Difama, io. È un'opinione detta secondo in satira. Formigoni, sì, infatti Formigoni cosa dice? Querelerò perché è venerdì. Ma non per questa imitazione che può far ridere, può far non ridere, perché... La satira bisogna accettarla quando non diventa offensiva. Lo querelerò, o meglio, dato mandato ai miei legali di studiare, probabilmente la querela scatterà per il comiziaccio d'osteria che ha fatto prima. TG3 titoli. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Legge elettorale alla Camera, non c'è accordo sulla parità di genere. I partiti maggiori lasciano libertà di coscienza, il governo si rimette all'aula. Palazzo Chigi al lavoro in vista del Consiglio dei Ministri. Tagliaref per rilanciare i consumi, per le imprese l'impegno a ridurre la burocrazia. su tasse e lavoro e sfida Renzi sindacati. Camusso, se si tolgono risorse agli ammortizzatori reagiremo. Bonanni, lo abbiamo costretto noi ai tagli. Sondaggio del TG3 sul voto, risultati diversi tra politiche ed europee, l'opinione degli italiani sulle misure annunciate dal governo. Torna dall'Albania il papà delle tre bimbe uccise dalla madre, in caserma disperato racconta il rapporto con la moglie, fiori e parole sul banco di Simone. Cresce la tensione in Crimea contro gli oppositori del referendum sulla secessione, il mondo chiede a Mosca un passo indietro e Cremlino offre una soluzione diplomatica. Si allargano le ricerche nel Mar della Cina, ma ancora nessuna traccia dell'aereo malese scomparso. Al setaccio l'identità dei passeggeri col passaporto falso. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Ma è con noi ancora Donna Assunta Almirante, eccoci qui. Sono contento, Donna Assunta, che sia stato risolto il problema del busto. Lei ne fa fare uno nuovo, certo. Ne fa fare no, uno. No, l'ho già fatto fare. Com'è venuto? Bello, bello come era lui. Vabbè, adesso. Vabbè, questo vabbè, l'amore di moglie va benissimo. Per carità, ma di non amore di moglie, amore di un popolo. Vabbè, vabbè adesso no, di un popolo, signora cara. Era bello, era no. Bello. Vabbè, era bello per lei, cara, però no, stiamo no, parlando. No, l'amavano tutte le donne. Come l'amavano tutte? Piaceva a tutte le donne, non a me. Ma un po' era anche suo marito, era un po' come il Berlusca, un po'. Com'era, no? Mio marito? Come il Berlusca, un po' era attento. No, no, no, non esiste proprio il confronto. In nessuna maniera. Ma era un po' anche lui amante delle donne. Ma no, non era affatto amante delle donne. Dove gliel'ha trovate queste donne? No, amante del genere femminile, dico io, del genere femminile. No, era il genere femminile che amava lui, non era lui che amava le donne. Cioè lui non ha mai toccato, non l'ha mai tradita. L'ha assunta, su. No, dai. Certamente io non lo so, ma sono sicuro, perché sennò gli avrei preparato i bagagli e sarebbe andato via subito. Vabbè, ma un tradimento si può sempre sopportare. Un tradimento su di Almirante. Un tradimento si può sempre sopportare. No, no, no, lei, ma io no. Ma vabbè, allora, dai. Che c'è, che c'è? Parenzo, non no. Ti va bene il busto di Almirante che è stato rifatto perché gliel'hanno rubato? Ma questa è la moglie che va benissimo, è ovvio. Il marito qual è il problema? Lo qual ama, è il tuo problema? Ma allora, voi chiacchierate no. Troppo e la gente non vi capisce molto. No, eh? La gente capisce, cara Donna Assunta. Cioè, io capisco. Parlate uno alla volta, no, non fate come i politici che si parlano in bocca ogni qualvolta sono in televisione, così noi siamo sempre costretti, fortunati noi, a cambiare canale. Ecco, ma Parenzo, che vuoi io dire su questa cosa? Una cosa definitiva. 30 secondi, definitiva, dico questo. Io capisco l'amore di Donna Assunta per il marito. Beh, la moglie va benissimo. Vabbè, allora? E l'amore di quello. Almirante ha un merito, che è quello di aver condotto nell'alveo della democrazia... Quindi italiani che dopo il fascismo, ma quegli italiani che dopo il fascismo possibile che non si riconoscevano nella Repubblica Italiana? Possibile che non vi aggiornate mai, che vai, parlate appunto. Sempre delle cose detto, vecchie questa e è la non cosa... pensate alle tragedie odierne? No, è Parenzo che è fissato. No, Parenzo, vuoi dire quello che pensi? Siete merito, questo è quello che penso. Il merito di Almirante è quello di aver condotto. Ho l'impressione che siete rincoglioniti tutti. Dopodiché, incominciate a essere rincoglioniti. Questo è sicuro. Dopodiché, per me, Almirante, oltre ad aver fatto questo, cioè aver condotto nell'alveo della democrazia, ma perché sei così lungo? Gli ex fascisti è sempre quello che sulla difesa della razza ma ancora, parlava ancora di sangue, andate al 1938 37, ma busto, possibile che siete faccia così le sue commemorazioni, le faccia privatamente, perché non è che tutti gli italiani si riconoscono in Almirante, ecco, ma io non dire. È che vi sto obbligando di chiamare di Almirante, siete voi che chiamate me per parlare di Almirante. No, ma non sono io che vi ho disturbato. A me va, ma, infatti, ma è Parenzo che no. Ce l'ha con suo marito, signora. Non è che e allora gli dica che se ce l'ha con suo marito si mette in un angolo e faccia silenzio. Deve, stare, infatti, deve rispettare il dolore deve della e lui così se la canta e così se la suona. Ma io infatti rispetto il dolore della moglie, il ricordo che lei vuol dare del marito. Dopodiché dice tutto, eh sì, questo, ma non è mamma mia, non è che posso. Cosa devo fare? Devo mandarla a quel paese? No, perché rispetto le persone. Dopodiché, sulla storia politica di Almirante avrai un milione in più di cose. Lasciate, da dire. Lasciate parlare alla gente. Intanto sì, è l'unico parlamentare in italiano che è riuscito ad avere un milione di voti. Oh, addirittura, sì, una volta. Sì, si lega, si vada a leggere la storia. Sì. Ma un milione di voti, che vuol dire questo? Ma la Meloni può essere l'erede di Almirante? Ma l'erede di Almirante sono io e basta. Basta. Signora, perché non si candida a 89 anni finalmente? Per i 90 anni si candida al Parlamento Europeo, signora Almirante, a 90 anni. No, io mi sono candidata già a casa mia, guarda. Non ho voglia di candidarmi con nessuno. Magari mi sono già candidata. Senta, se si trovasse di fronte a Fini, cosa direbbe lei? Niente, buongiorno, come stai? Basta. Sì, beh, sì, una sì. Stretta di mano, insomma, è no, poi non avrei dove lavarmi. Addirittura? No, io sono una patita delle mani. Poi non si trova. Sempre con i fazzolettini e quando non li trovo li cerco. Tanto Fini ha portato il partito al 14%. Che sapeva di questa mia debolezza, sì. E li faceva trovare sempre i tovagliolini vicino al piatto. Manco la mano gli darebbe a Fini, no? Anche perché gliela dovrebbe dare la mano a Fini, no? No, che ragione ho di dargliela? No, e che ne so. Beh, portò il MIS dal 4 al 14. Ancora, insiste. Sai com'è, comunque. Va bene, signor Almirante, l'abbraccio fortissimo. L'abbraccio. Io pure, vi abbraccio e tante cose care. Buona serata. Buona serata, cara. Arrivederci. È la tipica ragazza padana che a volte può sembrarti strana. La guardi in un istante e ti entra nella mente. È la classica padana. È la tipica ragazza padana che anche se ti sembra strana ti entra nella mente, non esce facilmente. È la tipica padana. Volete ordinare la compilation padana? Scrivete a Sammy Varin, speaker di Radio Padania. All'interno troverete anche la tipica ragazza padana. È la ragazza più bella del mondo. Ma Parenzo, esiste la ragazza padana secondo te? Allora, su questa cosa diciamo una cosa molto rapida, no? Sì, rapida. Io pensavo, rapida. Sì. L'abisso pensavo di averlo già visto in questi anni in cui trasmetti ogni tanto e riproponi le voci di quella radio, quelle voci del nord, quelle voci che provengono dal profondo delle viscere della terra alle volte, no? Allora? Che parlano alla pancia. Beh, ecco, però questo invece dà un tocco più umano, cioè paradossalmente. Ma scusa, esiste la ragazza, ma non ti sembrano la come la Hitlerjugend, scusami, questo non posso. No, io pensavo che dicessi è come la Hitlerjugend. Ma no, ma è la canzone del folletto amico. Ma secondo te esiste la tipica ragazza? Ma sono i nomi del bosco. Ma esiste la tipica ragazza padana o no? Ma è che ragazza padana, ma neanche nella testa di sto Varin esiste la ragazza padana. La donna è donna, fine, nord, sud, est, ovest. Senti Pellegrin. Ma senti Pellegrin va solo con donne che raccolgono l'acqua del Po e hanno le corna sulla testa. Non lo so, non credo. Se va con donne o non va con donne, sono cazzi suoi. No, dico senti il signor Pellegrin di Radio Padania, come ci tratta? Senti. Va bene, chissà come mai hanno la cura di paglia e si infervorano tanto, Ierode. Comunque quando sentirò questi signori intervistare i loro padroni, quelli che danno loro i soldi, cioè Confindustria, Radio 24 e la radio di Confindustria, chiedere conto dei 20 miliardi a fondo perduto, lo ha detto il loro padrone stesso, Squinzi lo ha dichiarato pubblicamente, intervistate Squinzi e domandategli, no? Dimostrate che non siete lì a ossequiare il padrone, che non siete lì a seguire le direttive del padrone, che non siete lì a randellare quelli che dicono le cose scomode al vostro padrone, in quanto i soldi di Radio Padania, i soldi che avete detto, i fondi pubblici, se li vedessi non sarei qua, ma sarei francamente in vacanza in qualche bella caverna che piace a me, da bravo orso. Quindi parlate, se dopo volete molto democraticamente mandare i carabinieri e impedire al sottoscritto di esprimere le proprie opinioni, questo dimostra ciò che siete. Dimostra ciò che siete. Noi abbiamo detto semplicemente che basta fondi pubblici alle testate di qualsiasi tipo, Radio Padania, anche Radio Comunista, Radio PPE. Radio quel che vuoi. Ma noi siamo compilation, no, però scusa, qui per noi siamo molto più liberi di questa parlare di Squinzi di quanto qua. Tu, caro Pellegrin, non lo sia del tuo segretario politico, ricordati, ricordati. Ma possiamo parlare dei fondi alle imprese quando vogliamo. Ma questa compilation, la compilation padana, sì, ma è veramente in vendita, ma non lo so dai, non è che sentire fatta qualcuno con i soldi del finanziamento Nina da Bologna questa. Nina, ciao, buonasera, dimmi Ciao, io volevo dirti delle quote rosa. Sono stanca da donna di essere trattata come un panda. Vabbè, lo so, ti capisco. Ti capisco. Vallo a dire a quelle deputate che oggi sono vestite di bianco a fare quella buffonata in Parlamento, quella buffonata. Cioè, non capisco il senso, capito? A cosa serve? A eliminare così il maschilismo? Così non lo elimini. No, serve alle persone che hanno già un posto in Parlamento di essere sicure che lo riavranno di nuovo. Ha capito? Le poltrone, ma lei dove le lavora, famose poltrone. Nina? Io rivendico, lavoro in una fondazione. Quindi lei il lavoro ce l'ha. Bene. Così? No, dico, perché spesso invece sono le donne che rimangono fuori dal mercato del lavoro, che non riguarda solo i parlamentari, le quote rosa, riguarda anche le grandi aziende. Io ho fatto 1000 lavori nella mia vita, ho 33 anni. Sì, mettiamo le quote rosa, Parenzo vorrebbe le quote rosa ovunque. Sai che nei paesi del nord ci sono? E chi se ne frega? Sai che i paesi civili, come quelli del nord, Norvegia, Svezia, sai dove sono sulla cartina geografica? E chi se ne frega? Nelle aziende nel nord ci sono, ma non me ne frega niente, non me ne frega niente. Vabbè, ma dovresti sapere. Nina, contro le quote rosa, grandissimo. Simona. Simona da Milano. Diritto alla mia diversità. Simona da Milano. Vabbè, ma questo. Pronto? Ciao a tutti, buonasera. Ciao, ciao. Io sono assolutamente pro quote rosa. Poi ho già fondato un nuovo movimento, si chiama Quote Rosa nella Zanzara. Beh, Quote Rosa nella Zanzara è interessante questo, questa cosa. Ecco, è interessante. Perché secondo me ci vorrebbe anche una voce femminile tra voi due. E comunque... ma io l'ho trovata, mi sa che l'ho trovata. Mi sa che l'ho trovata. E faccio comunque... questo annuncio. Penso di averla trovata, però prima devo un po' controllare, no? Devo un po' verificare. Ma è proprio femmina, femmina? Femmina, femmina, donna, donna. Bello, qual è il problema? Anzi, bene, sono... Bene. No, ma ho trovato mica al posto tuo, aggiunge. No, noi abbiamo un programma già prestabilito. Il nostro programma è... Quote rosa alla Zanzara e teniamo Parenzo. Beh, quello è chiaro. No, vabbè, Crociani, ti operi o cerchi un altro posto, io te lo dico. Ti operi. Ma dove? Ma come operare? Ma che dici? Ma non so, in qualche maniera, se vuoi far parte delle quote rosa, se vuoi continuare a lavorare lì. Ah, cioè lei dice Parenzo è una donna. Parenzo è salvo, e Parenzo io, è io a casa. Il nostro mito. E io a casa. Ma chi è ma il vostro di chi, scusi? Beh, però c'è un gruppo di sostegno. Ma il vostro di... Ma quale gruppo? Ma siete c'è un gruppo evidentemente. Ma siete un branco di disperati, o disperate, dai, su. Vabbè, per ascoltare voi per forza, eh. Sì, questo pure è vero, Vabbè, Simona, comunque quanti anni ha Simona, cara? Ma chi sembra che vuoi fare? 40, ma portati bene, Brava. Bene, perché è una voce gradevole, intelligente, simpatica. Allora, dovete chiamare me, però io poi come faccio con Crociani? Nella stessa stanza uno dei due va a finire male, io ve lo dico. No, perché lui è troppo rozzo e troppo maschilista per i miei gusti. Beh, attenzione qua, No, perché io le quote rosa adesso a parte scatta, di scatta, scatta. Smetterei, perché non si può andare avanti. Io sono contro la parità dei sessi. Io credo profondamente che gli uomini e le donne non siano uguali. Beh, e credo profondamente che prima o poi gli uomini diventeranno bravi e belli come le donne. Fatevene una ragione. Fabio, provincia di Roma. Fabio. Eccomi. Dimmi. Volevo interloquire con il sionista Parenzo. Questo sionista, che è successo? Ma come ancora sionista? A prescindere dal fatto che lui parla di Giorgio Almirante, parla di una persona che praticamente nel suo vocabolario non c'era né la parola tangente né la parola mazzetta. Vabbè, poi andiamo avanti. Poi? Poi andiamo avanti. E poi logicamente lo accusa perché un ragazzo a 17 anni voleva difendere popolo e patria. Ecco, e diceva, ma c'erano anche gli altri erano quelli che buttavano gli italiani dentro le foibe, che mettevano le bombe a Piazzella, ammazzavano degli altoatesini. Vabbè, Fabio, dove vuole arrivare? È un ragazzo italiano, e non avendo il coraggio di dire sono stato io, hanno fatto ammazzare altre. Va bene, Fabio, adesso non abbiamo bisogno. Faccia la lezione di storia. C'erano i partigiani di giustizia e libertà che non buttavano nessuno le foibe. Ragazzi, però non mi fate rompere le scatole. Alessandro da Lucca, basta, ne ho abbastanza di queste discussioni. Alessandro da Lucca, dai. Buonasera Crociani, buonasera Parenzo. Dica. Salve. Mi sentite bene? Sì. Ah, ok. Senta, volevo parlare a proposito dell'assurdità di queste quote rosa, ma facciamo una cosa, senta Crociani, io, lei e Parenzo facciamo, tanto la Costituzione ce lo consente, il partito degli uomini divorziati, che come si sa sono un po' bistrattati e quindi vogliono difendere i loro diritti. se riusciamo a raggiungere insomma la quota di sbarramento e andare in Parlamento, siamo costretti a mettere anche le donne nella nostra lista. Ma lei ha ragione, Alessandro. Guardi, ci sono tanti argomenti sulle quote rosa, ormai le abbiamo praticamente esaminati tutti. Costituzionale, di che stiamo parlando? E poi se dico un'altra cosa: se nulla, la paladina, se a parlare del nulla, se la paladina delle quote rosa è il presidente della Camera, che è lì come rappresentante massimo della genere femminile in Parlamento, amici miei, voglio un Parlamento al 100% di uomini. Voglio il 100% di uomini. Luca, Alessandria, buonasera. 100% uomini. Buonasera, buonasera. Io volevo creare il gruppo Quote Fuchs, perché giustamente quote rosa, quote azzurre, e penso al carissimo Vladimir Luxuria, perché no le quote fucsia, visto che stiamo parlando veramente dell'assurdo delle quote rosa, mi vabbè, perché andiamo a escludere quelli che sono diciamo una via di mezzo. Poi volevo, caro Cruciani, ricordare solo una cosa rispetto a quell'indagine statistica dove poneva l'Italia al 18° posto per quanto riguarda il femminicidio, se non ricordo male, che in questi dati statistici si prende in considerazione la demografia, quindi per forza ci troviamo al 18° posto, ma se andiamo ad analizzare il dato del singolo paese, nel nostro caso popolazione, numero di case di femminicidio, forse ci può essere un allarme femminicidio. Ma quale allarme? No? C'è stato allarme, per modo di dire, ovviamente. Ma l'allarme c'è sempre, qualsiasi persona venga uccisa, cioè, ma non c'è un allarme nello specifico. Non è che siamo diventati più cattivi, cioè, non è che le donne vengono uccise di più. C'è un piccolo aumento statistico in questi ultimi. Io impazzisco quando uno dice da prendere in considerazione. Cristiano da Genova. Buonasera, i complimenti non ve li faccio, tanto lo sapete che siete bravi. Dunque, una considerazione sulla Boldrini. Al di là del fatto che io ho piena solidarietà, mi sento pienamente solidale con le donne perché sono per la parità, tant'è vero che faccio da mangiare, pulisco il cesso, faccio tutte le cose che fanno le donne. Vorrei far notare alla Boldrini che ci sono certi lavori, tipo a Pompei, dove non si trova personale. Ora, ci lamentiamo tutti che Pompei sta decadendo, un po' come il resto dell'Italia, e non trovano manovali, non trovano... Vabbè, che c'entra questo, scusi? Che potrebbero mandare delle donne giù a fare questo mestiere. Vabbè, questa è una stronzata, dai. Uno ci va se ci vuole andare, non è che mandano, non è che deportiamo le donne lì. Però, Cruciani, com'è possibile che non ci sia una donna che faccia un muratore, una donna che faccia l'idraulico, a sturare i cessi, che non ci sia una donna al servizio strade? Questo è normale o... No, ho capito, ma cosa vuol dire una donna? Non esiste una donna muratore, una donna. Cioè, ma dice una roba sensata? O... Vabbè, ma ognuno fa il lavoro che vuole, poi ci sono lavori più adatti, meno adatti, punto. E almeno basta, questo, no? Certo. O no? Va bene, ma se vogliamo la parità, lo vogliamo al 100%. Sì, okay, ma non si può imporre nulla, capito? Ci sono le donne soldato, ma che dici? Ma perché dice stupidaggini? Esistono le donne soldato o no? Sono anche in missioni all'estero. Vabbè, allora Cristiano, non ho capito. No, il discorso era giusto questo. Cioè, secondo lei è una follia le quote rosa, allora le donne dovrebbero essere anche... Non è una follia, però mi sembra che si stia gonfiando un po' troppo la faccenda. Ma sì, ma si discute da tre giorni solamente di questo, con la legge elettorale bloccata, fra poco ci sarà il voto, è tutto bloccato nord per questo. Perché Europa è così, se ne discute e si è fatto da tempo soprattutto, perché? Vabbè, perché? Davide, dai, Franco, provincia di Agrigento. Ci sarà un motivo, la Svezia, stupidi gli svedesi? Franco? Pronto, sì. Pronto? La sento male, Matteo da Brescia, buonasera. Buonasera, volevo solo dire una cosa, ma perché, mi chiedo perché, e perché la Boldrini utilizza i soldi che io pago a lei per fare quelle stronzate qua? Per dire stronzate del genere, perché? Perché siamo in uno stato dove sta piovendo merda da tutte le parti, abbiamo in Parlamento di tutto, e lei utilizza i nostri soldi, il nostro tempo per una cosa del genere. Cioè, perché cosa? Per dire quella roba qua delle quote rosa del 50%, ma di che cosa parliamo? Di che cosa parliamo? Io ti pago per fare quello che devi fare, non per fare quelle stronzate qua. Volevo solo dire questo, punto. Perché l'utilizzo dei miei soldi, dei tuoi soldi, dei soldi di tutti gli italiani, cazzo. Volevo solo dire quella roba qua. Quindi eviti di fare stronzate del genere, che si fa ridere dietro da tutte le parti e va avanti a fare il lavoro che noi la paghiamo per fare. Solo questo volevo dire, vi ringrazio. Grazie. Salve. A lei. Le zanzare fanno male, malo. siete vecchi e siete bugiardi, siete vecchi e bugiardi. Allora, Renzi chiede al pluriassente al Senato, Renzo Piano, di dargli una mano per il rammendo delle scuole. Ora, perché per le scuole uno deve chiedere il parere a Renzo Piano? Renzi chiede il parere a Renzo Piano sulle scuole. No, già che ce l'abbiamo qui al Senato, che è senatore. No, veramente non ce l'abbiamo perché non ci sta mai. Spiegami. Allora, perché su ogni cosa dello scibile umano che riguarda i palazzi, le cose, uno deve riempirsi la bocca del nome di Renzo Piano? Io non ho nulla contro Renzo Piano. Perché Renzi deve chiedere potrebbe chiedere a un architetto normale, magari ha molta più voglia e ha molta più competenza per quello che riguarda le scuole. Bisogna chiedere a Renzo Piano una mano, un'idea su mettere a posto le scuole. Perché? No, su renderle più umane, più belle, più visibili. Ma dai, più... Siccome hai una persona che è lì, che ha le competenze per farlo, che conosce tutto il mondo, ma è lì, non che c'è, ha disegnato non ospedali c'è. All'estero per disegnare ospedali. Ma la giornata dura 24 ore, più 5, 6, 7 di sonno. La giornata dura 24 ore. Uno non può fare il senatore a vita, pensare all'arredamento delle scuole, fare i suoi progetti all'estero. Ma che è sto Renzo Piano? Batman, chi è? Renzi. Ho chiesto una mano a Renzo Piano, lo vediamo giovedì, perché in questo progetto di rammendo, come lo chiama lui, delle scuole, ci sia un suo contributo. La figuraccia di Alfano, che dice non daremo scampo all'assassino, già si sapeva che in realtà era la... A me fanno impazzire questi qua politici che vanno in televisione, fanno grandi annunci, no? Non daremo scampo all'assassino sull'omicidio di quelle tre povere bambine. E poi invece in realtà già si sapeva che era la madre, negli stessi minuti, ma parlasse con la polizia, invece vanno lì a fare un comizio in televisione, non daremo scampo. E certo che non darei scampo all'assassino, poi non dipende da lui soprattutto. Tre bambine uccise, è normale che uno dice no, beh, siamo qua con le mani in mano, no, dai scampo. Immagino che la polizia sia scatenata, no? Sì, ma non dipende da lui, poveraccio. Quando tu stai per dormire. Di fronte alla drammatica notizia della uccisione di tre bambini a Lecco, mi sento di dire da cittadino di questo paese, da ministro dell'interno, che noi non daremo scampo a chi ha compiuto questo gesto efferato e ignobile. Inseguiremo l'assassino fino a quando non l'avremo preso, e quando lo avremo preso lo faremo stare in carcere fino alla fine dei suoi giorni. Perché la morte di tre bambini così violenta, la morte di questi tre bambini non può restare impunita. Che grandi proclami! Una serie di castronerie in fila, proprio lo faremo stare in galera, ma non dipende da lui, non è lui! Lo faremo stare in galera, lo decideranno i tribunali, innanzitutto. Appunto, no? Non il ministro degli interni, di NCD. Dio. Non Dio, la candideremo Dio, sicuramente Dio. Alle elezioni, ecco, questo poteva dire come impegno, diciamo. Quello che ti pare. Lidia Roma, noi abbiamo una marea di donne che ci chiamano contro le quote rosa, sono molto contento di questo qui alla Zanzara, Lidia Roma. Esatto, buonasera. Buonasera. Volevo solamente dire che io faccio la fisioterapista in un istituto religioso, il Don Orione, la capo reparto è una donna, siamo in maggioranza donne. Bene. Nel reparto per gli anziani la caposala è una donna, sono in maggioranza donne, quindi dove c'è bisogno di donne... Le donne in gamba lavorano, le donne che ci sanno fare lavorano, non ci abbiamo bisogno di aiuto di nessuno. Ma qui si parla di un'altra cosa però, in Parlamento. È uguale, se tu sei brava in Parlamento ci arrivi, se brava. Non vali una cicca non ci arrivi, punto. Cioè non qualcuno dice c'è così. Il blocco degli uomini. Ma de chi? Ma de chi? Ma gli uomini se vanno fuori da soli, ma de chi? Ma de chi? Ma dai. No, ma come nel mio lavoro. Con me sfonda una porta aperta, è a Parenzo che lo deve dire. Parenzo, poveraccio, lo dica è sua sorella. È legato al vecchio cliché del Partito Comunista. Ma non brava. C'è, a parte I che non c'è femministi, i finti sì. femministi. A parte che non c'è femministi. Nessuno, ma a me che mi frega del brava, femminismo, sono robe vecchie. Sono robe vecchie, amica Lidia. A Lidia sono robe vecchie, ma falla parlare. Roba vecchia la dice lei, Parenzo. Io andavo al tasso, alla scuola al tasso, e i compagni erano tutti finti femministi, odiavano le femministe e parlavano di noi donne come se fossimo stati stracci. Ma che mi viene a raccontare? Ma a me che me frega del femminismo? Non è mica una questione femminista, sì, femministi, no. Femminismo? Ma che te frega? Femminismo è una cosa seria. Guardi, non è più una cosa guardi seria. Che Nilde Iotti fu la prima donna presidentessa della Camera. E quindi... Ma quale? Cioè aveva il suo percorso politico per i fatti suoi, ancora con questa stupidaggine. Ma e Tina Anselmi, e Tina Anselmi, allora se la ricordo o no? Ma quindi... lascia perdere Tina Anselmi, che da... ha dato la pensione all'Inps ai terroristi titini. Ma che stai a dire? Mamma mia. Ma ha ragione la signora. Ma ha ragione su cosa? Anziché dare ragione su qualunque stupidaggine che dica, di su che cosa ha ragione. Su cosa ha ragione? Ma responsabile delle foibe. Ma che cosa mi viene a dire? Ma adesso studi. Studi sui libri tari. Mamma mia, mamma. Studi sui libri tari, Valezzo. Tieni a me lo mandi lei, il libro, va, La difesa della razza. Me lo mandi lei, va? Ombre danzano come zanzare, queste ombre sulla strada, e cadono le ceneri della città, qui sulla strada. Oh, vogliamo sapere da Maurizio Gasparri, grande nemico delle quote rosa, com'è la situazione? Mi sembra che per queste signore bianco vestite ci sarà poco da fare, caro Gasparri, no? Buonasera. No, guardi, anzi io credo che si voti tra poco alla Camera. Mi pare che però mi sembra che no. Ma penso che ce la faranno invece. Addirittura? Approvato. Ma penso di sì, perché no? Perché dice così? Questa è la mia previsione, uno volta un po' le scaramanzie, cioè, cosa... perché guardi, poi alla fine non è che mica è una questione personale, io ho fatto una mia valutazione, molti la condividono, altri la condividono e non lo dicono, alcuni lo dicono di condividerla, dopodiché io credo che alla fine questa cosa porterà dritti dritti alle preferenze. Ah, questo non c'è perché dubbio, perché evidentemente piuttosto che queste rigidità, non vorrei che, come si suol dire, chi troppo vuole nulla stringe, cioè pretendendo una rigidità del 50% dei capilista, spieghiamo di questo si sta parlando, e siccome facciamo dei collegi che hanno un radicamento rispetto al territorio, non è detto che ci sia per forza un certo numero di donne o di uomini adatti per questa o quella zona, può darsi che non ci sia l'uomo adatto, non è una zona, o ci siano troppe donne. Cioè sia... cosa passerà, adesso cerchiamo di chiarire, cosa passerà secondo lei fra poco alle Camere? Potrebbe passare l'emendamento che prevede che il 50% dei capilista sia donne, oppure non so, io sono al Senato come no, lo so, ma l'alternanza passerà, non so se ci sono emendamenti che prendono il 60 e il 40, mi pare che c'erano varie ipotesi, dopodiché credo che tutto questo porterà alla lunga a introdurre nella legge elettorale la preferenza, e non so se per le donne sarà più conveniente. Perché con la preferenza poi ci vogliono i soldi, il radicamento, il radicamento sul territorio, il lavoro che... Diciamo che l'aumento del numero di donne in Parlamento è paradossalmente avvenuto grazie al famigerato Porcello. No, ma è vero, è così. Perché con la lista bloccata un partito può decidere, voglio mettere più donne, no? Certo. E quindi probabilmente... non ci sarà un numero così alto se ci fosse la preferenza, se invece ci saranno delle liste comunque rigide, anche se poi essendo rapportate sul territorio, le ripeto, in alcune regioni uno potrebbe mettere tutte donne capolista, ma non lo può fare, o tre quarti di uomini e un quarto di donne, non lo può fare. Io credo che la rigidità, secondo me la Corte Costituzionale boccerà questa roba qua, questo una... ma questo non lo so, perché la sentenza della Corte, sì, ma ci sono varie sentenze eccetera, però poi boccerà. È stata cambiata la Costituzione. Ma perché, per esempio, lei si dà una spiegazione del fatto che Parenzo è rimasto indietro e pensa che mettere il 50, una donna, un uomo, una donna, un uomo, una donna, un uomo, una donna, un uomo, non è una cosa questo. Positiva, cioè non ho obbligato questo. Anzi, mi dà l'occasione di chiarire, l'altro giorno uno su Twitter mi ha redarguito perché avevo scritto un Twitter indirizzato a Parenzo settimane fa augurandomi l'epurazione di Parenzo. Vabbè, ho spiegato a questo signore su Twitter che non era una minaccia, l'avevo scritto scherzando a Parenzo, ma certo. Del quale, come lei sa, alle registrazioni auguro sempre paradossalmente tutto il bene possibile, ma io, con infatti, affetto, cioè. Ma lo so, ma lei, ma infatti, ma io non ho a parte no, dei difensori che mi prendono sul serio quando le minaccio l'epurazione. No, ma ho già mobilitato il sindacato, ho già mobilitato la CGIL, CISL e UIL anche così, tutti però e tre, Gasparri, lei è entrata in polemica con alcune donne del suo stesso partito? No, io non sono entrato in polemica. No, vabbè, ci sono state delle polemiche. Io voglio capire una cosa. Secondo lei, è quello che penso io, mi dà una risposta dopo la pubblicità. alcune persone, Prestigiacomo, Carfagna, eccetera, perché fanno questa battaglia? Davvero perché pensano che si debbano introdurre, oppure perché pensano che è più facile mantenere la poltrona? Diciamo la verità, io la dico tutta, sono più libero di dirle cose di questo tipo. Vediamo se ha il coraggio di dirlo anche lei dopo la pubblicità. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa. Quanto siete stupidi, siete proprio insopportabili. La zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza. Siamo qui con Maurizio Gasparri, senatore Forza Italia. La Prestigiacomo dice: caro Gasparri, beh, i maschi con lo scrutinio segreto vogliono conservare la poltrona. Poi dice anche che la parità di genere è una cosa che va trattata con serietà e non come fa lei, Gasparri, a colpi di maschilismo bieco. Ma guardi, bieco, bieco. Allora, primo, Prestigiacomo e Carfagna avrebbero comunque spazio garantito, perché sono persone che con il proprio lavoro politico e parlamentare hanno conquistato posizioni di prestigio, quindi la questione non è rivolta a loro. E a poi chi? Dopodiché, ma Prestigiacomo, a chi era rivolta la sua intervista sul Corriere? A chi era rivolta? Io sono contro le rigidità, perché ritengo che mettere delle quote sia di massimo. Io sono d'accordo con lei su questo, al 100% sono d'accordo con lei. Dopodiché, a chi era rivolta questa sua accusa al Corriere? Quando ha fatto l'intervista, a chi era rivolta? Se non era rivolta, soprattutto quelle meno conosciute. Scusi, se si mette un limite che il 50% delle capoliste donne, si aprono delle possibilità per le donne, quelle casomai meno conosciute, meno affermate, che casomai sono brave ma non hanno avuto lei la lei ha detto quelle farsi... nominate da Berlusconi sono state nominate da Berlusconi, lei ha detto, adesso invece questo è il punto. Ci sono alcune persone che probabilmente non si sentono di affrontare la prova delle preferenze, o pensano che senza un meccanismo che obbliga una quota non verrebbero messe in posizioni di lista garantite. Io invece credo che le persone valide debbano... Io quando ero ministro delle comunicazioni nominai una maggioranza di donne direttori generali per mia scelta, non perché la legge mi obbligasse. Se la legge mi avesse obbligato mi sarei sentito costretto, invece per libera scelta determinai sulla base di curricula e di qualità la nomina di una maggioranza ma nessuno generali me l'ha risposto, però scusa, questo ognuno fa quello che vuole su perché questo. Nei paesi del nord sono tutti scemi secondo voi? Come? Non ho capito, come Parenzo, non ho capito che dici? Gasparri, cioè, avete ragione tutte e due, ma nei paesi del nord, Svezia, Norvegia e Danimarca, ma chi se ne frega, ma non ho capito, ma perché stare, perché liquidi tutte le cose con chi se ne frega, che ma nei paesi del nord sono stupidi, che hanno addirittura messo un obbligo anche per le aziende. Sbagliato, sbagliatissimo. Guardi che c'è anche in ma Italia, sono stupidi. Parenzo, appunto, c'è anche in Italia. Informato. No, lo so. Noi abbiamo fatto una legge che garantisce Vedi? Una presenza di donne nei consigli. Male, male, malissimo. E io lo so perfettamente. Dopodiché, allora, scusate, voi due, siete due conduttori maschi, mettete una donna e un uomo, perché Cruciani e Parenzo? No, ma ha ragione, infatti se arriverà, e Parenzo. Se arriverà, infatti, oppure Parenza e Cruciani, scusi. Parenza e Cruciani. È più facile Cruciani. Alla conduzione di Radio 24 la Zanzara. Ha ragione, lei ha ragione. Perché c'è la Zanzara che è femmina, credo. No, ma lei ha perfettamente ragione. Il problema è uno solo, che può arrivare a sostenere questo, no? Scusi, avanti di questo passo si arriverà. Scusi, Gasparri, dato che siamo su questa china, cioè, avanti di questo passo, dopo le quote rosse, si potrebbe arrivare, che ne so, alle quote luxuria o no? Beh, scusi, a questo punto, no? Uno che sostiene la tesi che i generi siano addirittura 5, e quindi non solo uomo e donna, come io ritengo, però poi ci sono gli omosessuali, poi ci sono gli omosessuali lesbici, gli omosessuali di altra natura, i transessuali. A quel punto, un domani, si può anche arrivare a una parcellizzazione di quote, perché no? Se uno, come dire, vuol mettere delle quote, per coerenza le dovrebbe... Allora, se io volessi votare, per esempio, nelle regioni dove, mi scusi, c'è la preferenza doppia, lei sa che in alcune regioni, negli enti locali, nei comuni, se tu puoi mettere una doppia preferenza, purché metti due persone di genere diverso, un uomo e una donna, giusto? E se voglio votare un uomo non omosessuale, non lo posso fare, perché quello omosessuale è classificato casomai maschio o cioè femmina. lei sta dicendo, dove se facciamo le c'è quote una discriminante, lei sta dicendo, se facciamo, se si faranno le quote rosa, dove mettiamo, bisogna essere dove mettiamo analitici. Dove mettiamo alcuni, dove Forse mettiamo alcuni, le faccio un esempio, cioè, scusi, no, adesso quando si vota in un comune tu puoi mettere due preferenze se però indichi due persone di sesso diverso, mi segue? Sì. Un maschio e una donna. Sì. Ma se voglio votare una donna e un omosessuale dichiarato che è tale legittimamente, perché mi è una cosa vietata, dove lo colloco? Io come faccio? Come faccio? Come beh, quello è uomo, però quello, che ne so, uno come, come si chiama? Uno come Scalfarotto, lei è un uomo. Allora le faccio un esempio. È un uomo Scalfarotto, però io non potrei votare Cruciani e Scalfarotto, perché Scalfarotto sarebbe considerato burocraticamente dello stesso sesso. Quindi, come vede, quando si va su questo, allora è meglio mettere, guardi, una preferenza. Cioè, secondo lei, con questa legge sulle quote rosa, se mai sarà approvata, eccetera, non si può mettere, che ne so, cioè Scalfarotto dove va messo, secondo lei? No, vede. Ma questo non lo so, lo chiedo a Scalfarotto se vuole essere incasellato. Questa è una bella domanda, lei sta banalizzando un tema serio. No, non lo sto banalizzando. Scalfarotto glielo chiede. Io ritengo che a questo punto è meglio avere una preferenza unica in tutti i tipi di elezioni. E poi quando il signor Cruciani va nella cabina a votare, vota a chi vuole. Quello lui. Lei è a favore della preferenza uomo, unica. Donna, questa è una novità, però, perché lei non è stato un uomo e basta. Lei, cioè, non è mai stato a favore della preferenza, cioè. Io guardi, allora, anche su questo io sono stato eletto con le preferenze. No, ma d'accordo. Il mio partito attuale è contrario alle preferenze e io accetto questa decisione presa a maggioranza nel mio partito, ma a me le preferenze non spaventano, sono nato con le preferenze, sono stato eletto con le preferenze. Una volta alle elezioni europee ho preso 220.000 preferenze. Però scusi Gaspari, sono stato tra i 10 lei ha posto un problema serio, i gay dove li mettiamo, i gay dichiarati uomini, ma per esempio? A questo punto se lei ripristina la preferenza, lei vota chi vuole. E invece una preferenza, con le quote rosa non sapremo dove mettere i gay omosessuali, femmini, maschi, ma dichiarati. Lei mi risponda a questa mia domanda. Adesso per il comune, smetta che domani si vota al comune di Roma perché Marino si dimette. Lei vive a Roma? No, a Milano comunque. Vabbè, anche a Milano è la stessa cosa. Mettiamo che si vota a Milano. Lei va al seggio, può votare o una persona o due persone con preferenza doppia, purché siano di sesso diverso. Ma per sesso diverso si intende uomo e donna. Se lei vuol votare una donna e un omosessuale, anche se è una persona che si dichiara tale, perché può farlo il suo. Ma però l'omosessuale di solito è uomo oppure donna, scusi Gaspari, abbia pazienza. No, è questa di non è, allora, ma non c'entra la preferenza sessuale. Non c'entra niente, ma di cosa state parlando? Allora Cruciani, quando si cammina in questo percorso, ho capito. Ci si abita in mille contraddizioni. E intanto è stato bocciato. È meglio mettere una preferenza unica e lei va al seggio e vota a chi vuole, perché lo stima e non perché uomo, donna o gay, ma quello sono... o è di Caltanissetta o è di Tradate. Allora, intanto voti contro l'emendamento 335, favore 227, è stato bocciato il primo emendamento sull'alternanza di sessi in lista alla Camera, dunque già. Però ce ne sono altri. Bocciati i primi due emendamenti sulla quota rosa, ce ne sono tanti altri e va bene, d'accordo. Ma l'ho detto, alla fine, guardi, tutto questo porterà a mettere la preferenza e a quel punto ognuno sarà libero di fare la sua scelta. Senta, mi dico un'altra cosa, le sono piaciute le domande di Fazio a Renzi ieri? Ma lei pensa che io ho visto Fazio che intervistava? E che ne so, magari si è voluto fare male. Persona. Ah, si è visto Roma-Napoli, è vero. Ho letto su Twitter. C'era Napoli-Roma. A parte che c'era Napoli-Roma, abbiamo pure perso noi della Roma. Ma anche se non ci fosse stata Napoli-Roma non l'avrei visto. Ho letto su Twitter, che seguo attentamente, che molti hanno accusato Fazio di non aver fatto domande. Uno ha scritto su Twitter perché hanno fatto le domande. Allora, prendendo per buono quello che ha scritto su Twitter questa cosa, mi dicono che non è stata un'intervista molto aggressiva. No, pare di no. Che la faceva lei era un po' più grintosa. Ma infatti non se la fa, però è diversa. Se la faccia fare, io mi faccio intervistare da lei. Fin quando era quello sciagurato di Parenzo. Fin quando era alle primarie, faceva le primarie, sì, poi adesso è diventato adesso è più comodo. Io mi sottopongo anche alla prova Parenzo. Diamo atto a Gasparri che ci mette la faccia. No, quello non c'è dubbio, un po' troppo, dicono che sia un prezzemolino, vaga un po', però vabbè, Gasparri, ognuno fa quello che vuole nella vita, poi. Senta, ma la Boldrini, stasera dov'è la prova del cuoco? A me mi chiamano, mica li chiamo io. No, ma quello mi avete chiamato voi, mica l'ho chiamato. Senta, Renzi vuole dare una consulenza a Renzo Piano, speriamo gratis, sulla questione delle scuole, di rimettere a posto le scuole. Io ho consigliato al signor Renzi, dico, però prima facciamolo venire un po' più al Senato, perché altrimenti la consulenza sulle scuole. Ma secondo me Renzo Piano, siccome al Senato non ci viene mai, è venuto solo il giorno in cui si votava contro Berlusconi. Se non gli interessa, ma lasci il laticlavio e poi faccia tutte le consulenze che vuole. Lascia il laticlavio, che fa? Laticlavio, così è un termine desueto per dire il carico senatoriale. Ah, ecco, lei è giovane, non conosce. Siamo al top, il laticlavio. No, pensavo si utilizzasse. Io sono stato eletto ai tempi di Cicerone, quindi uso questi termini. A lui non piace. E poi ho detto un'altra cosa, caro Parenzo, mettitelo in testa: finché l'emblema delle quote rosa è il presidente della Camera, Boldrini, la quale parla del 50% e 50%, no, ma il simbolo è la massima, è la donna. Ma la Boldrini è quella che vuole censurare le imitazioni della Boschi? Esatto, è come se lei fosse intervenuto sulla Rai per bloccare Neri Marcorea, capito? Io invece a Neri Marcorea ho mandato sempre complimenti e ringraziamenti. No, ma è come la stessa cosa, è la stessa cosa, come se lei a un certo punto si mette. Sarebbe successo, pensa, voi ma immaginate. Ma l'avrebbero arrestato. Esatto. Immaginate Gasparri che si mette a fare lettere alla, alla vigilanza RAI, al presidente della RAI, eccetera, dicendo: beh, questa cosa qui è una vergogna, eccetera. No, ma io Marco Re, l'ho sempre, le poche volte che l'ho incontrato casualmente, un paio di volte, gli ho detto che apprezzavo, certo, era un po' forzata la cosa, vabbè, ma devi accettare lo scherzo, fa parte della notorietà. E dunque la Boschi, ma infatti la Boschi non se l'è presa. Deve accettare lo scherzo. No, ma la Boschi quando infatti diventa conosciuto, lo, beh, a lei, però a me mi, mi imitano per le occhi a palla, a lei perché c'ha una bella presenza. E che questo va dato atto a Gasparri per ora. Però diciamo, per fare, per non fare polemica, ma per farla al massimo livello, che nel passato, diciamo, la sua parte politica ha fatto di peggio, perché fece il famoso editto Ma che c'entra? Ma quella fece è un'altra il famoso editto Bulgaro in cui cacciarono dalla RAI Santoro, sono d'accordo Luttazzi con lei. Quindi, insomma, però diciamo, a parte che il famoso editto Bulgaro riguardava una polemica sull'informazione, ma diamolo per diverso, negativo, dai. L'editto Bulgaro, a me questo editto bulgaretto di, della Boldrini, ma lo sa che lo, ma è ridicola la roba della Boldrini, infatti, anche secondo me, ovvio, della Camera, chi è? Del nostro gruppo imita la Boldrini, lei m'ha visto. Ma lo so, lasci perdere. Adesso perde. Lo caccerà da vicepresidente. No, lasci perdere, che pare che ci sia un filmato, mi hanno detto, un filmato segreto che il signor Baldelli dovrebbe tirare fuori. Dacce il filmato, Baldelli, dacce il filmato. Allora, ma c'è, no, un filmato su YouTube dove ci sta Brunetta, la presidente della Camera imitata, dice di non discriminare Brunetta perché è una donna, è tutta una gag giocata sul nome di Brunetta facendo finta. E lo so, però non vuole più fare quell'imitazione Baldelli, perché dice che ormai, per noi, ormai ha un ruolo istituzionale e se prende la deve fare Baldelli. Ecco. Adesso la Boldrini imita sempre se stessa, una volta la fa. Ma glielo dica, perché Baldelli in realtà io l'ho sentito oggi, ho detto no, io non posso più fare l'imitazione della Boldrini perché la Boldrini ormai faccio vicepresidente, non posso fare l'imitazione, prendere in giro sostanzialmente il mio presidente. Invece lo dovrebbe fare, a maggior ragione. Ah, sì, ma è una cosa simpatica, scherzosa, in un momento così triste se leva manco una nota di ironia che ci rimane, dai, su, rimane a Boschi. Secondo lei la Madia può fare il ministro della pubblica amministrazione, comunque che governa la pubblica amministrazione, incinta? No, vabbè, quello che vuol dire, molti dicono, mesi, alcuni hanno detto, alcuni hanno sottosegretario, no, la maternità va garantita a tutti, anche a un ministro, e meno male fare. Meno, ma no, siccome qualcuno, compreso esponenti del suo partito e il segretario della Lega, hanno detto no, siccome no, ma questo io non sono, io sono a favore della vita, della maternità, si figuri se mi metto a dire che un ministro non può fare il ministro perché deve mettere al mondo una vita, gli faccio gli auguri per questo, semmai il problema della Madia sarà dimostrare sul campo di avere quell'esperienza che sulla carta non sembra avere. Comunque Renzi ha detto che Grillo è un incrocio tra Gasparri e la Biancofiore, eh? Ma c'hanno tutti l'ossessione di Gasparri, perché Grillo è partito dicendo mi sembri Gasparri, così è andata la gag, io me la sono vista. Grillo gli dà del Gasparri e quello dice tu sembri un incrocio tra Gasparri e Biancofiore. C'hanno l'ossessione di Gasparri, evidentemente io sono uno che colpisce. Ma poi non hanno capito che più citano Gasparri in senso negativo, come emblema del male più assoluto, dell'emblema del politico, cioè più in realtà si costruisce, no? Più lo tutelano, più sarà candidabile è fino come io quando attacco il povero Parenzo che era direttore del TG1. Vabbè, diciamo una parola definitiva su queste donne che l'hanno trattata malissimo, queste qua, anche lei non ci è andato tenero. Ma che vuol dire, con Stefania spesso ci sono delle periodiche incomprensioni, però io Si sono vestite di bianco. Ma poi l'altro giorno alla Carfagna ho risposto ad esempio via Twitter, quindi è tutto pubblico, se lei fa la ricerca trova uno scambio di Twitter che si è concluso con attestazioni di reciprocatina e amen. Uno può anche non essere d'accordo su una tesi, io mica mi sento un oscurantista per questo. Vabbè, comunque Parenzo non te la sei presa abbastanza con Vendola? Con Vendola che dice che si deve La Camera ha respinto un altro emendamento, sono stato cattivo profeta, però vedrà che alla fine uno ne passa. Ci ha fatto una previsione sbagliata. Grazie, presto. Poi devi vedere come finisce. Ciao, ciao. Vincenzo, io ti ammazzerò. Sei troppo stupido per vivere. Oh Vincenzo, io ti ammazzerò perché? Perché non sai decidere. Continua il mistero. Davvero Gino, il tassista genovese, ligure, che ogni tanto ci chiama, è il cugino di Vincenzo Mollica? Vincenzo dice che sei fredda, Luciani, ascolta. Dimmi, dimmi, sì, Gino, dimmi, quel dimmi. Quel rospo brutto, schifoso di mio cugino, sì, se si degnasse di rispondere. Sarebbe mollica, sarebbe. Oppure tu hai detto a quella signora che chiami il prete lì di quel paesino, chiama mio cugino domani. Ma l'ho ancora chiamato una volta, mi ha detto che non esiste nessun Gino Baroni. Si vergogna, e anche se fosse tuo parente, adesso, ora si vergogna. Lui ha detto, guarda, ascolta, lui ha detto che i parenti li ha negli Stati Uniti. È un coglione, perché lui è stato in Canada, che non sono Stati Uniti. Però scusami, io adesso, anche se uno, scusami, uno, tu dai del coglione a tuo cugino. Brutto, rospo, schifoso, ma quello che deve fare. No, schifoso no, ho detto rospo. Sei troppo stupido per vivere. Ma perché lo vuoi incontrare? Perché ci vuoi parlare? L'unica cosa in cui io contavo sul mio cugino, se mi dava una mano a venire a Roma lì da quello che fa le scatole. Da quello che fa? Le scatole, i premi lì nella scatola. Come ah, i pacchi, sì, da Bonolis. E allora? Se io vincessi qualche lira, insieme, la dono a nome di, mio, di mia figlia, con l'aiuto di Vincenzo Mollica, se mi aiuta, e anche tuo... Anche tuo a che fare? Figli. A che fare? Li dono al Gaslini, i soldi, li dono ai bambini. Ma non è che uno può essere raccomandato per vincere, devi vincere lì poi al gioco dei pacchi, no, Gino? Se ho fortuna, se non ho fortuna, ame. Sei troppo ladro. Ma già Vincenzo Mollica, interpellato dalla Zanzara, aveva negato tutto. Perché non sai soffrire. Ma è vero o non è vera sta cosa? Perché no, ci ha chiamato. Io non ho nessun cugino, poi mi possono trovare tutti. Perché c'è un antico della terra. Appunto, lo so, per se questo. Mi chiamano al centralino, mi trovano facilmente. Quindi proprio non. Per cui non hai cugini che si chiamano Gino, Vincenzo? No, io sono figlio unico. E i miei parenti sono negli Stati Uniti. Sì. Quindi i primi cugini non esistono. Cioè, neghi che esiste un cugino che ti cerca, ti lascia il telefono e tu non lo richiami. Vabbè, che dobbiamo fare? Decidere. E a questo punto Gino se la prende con Parenzo. Le luci gialle, i tuoi cortei illuminano, sono contento che ci sei. Vincenzo dice che sei fredda, frenetica senza pietà. Scornato Gino da Genova, oddio, il cugino di Mollica. Il cugino di Mollica. No, non si spaventare. Il presunto cugino di Mollica, il presunto cugino di Mollica. Ti dico che mia mamma, la sorella, la nonna di Vincenzo Mollica, Noemi Baroni, era un agricoltore, hai capito, coglione di Roma. Ma non ho capito, ma chi è sta gente che citi i tuoi parenti? Ma chi se ne frega? Lavoro insieme ai figli tuoi, oh Milano, che io sono un uomo sincero, onesto. Ho le mie origini da quel paese. Il papà di Vincenzo Mollica, non ho paura a dirlo, era sdraiato in un prato, in un campo, e mangiava il miglior salame che producono in quelle colline. Se ne frega, però, scusa. Quel bastardo lì di Parenzo, qua, se ti va avessi tra le mani ti spacco, guarda. Ma scusami. Vabbè, la saga continua, eh. Gino Baroni e Vincenzo Mollica, cugini o no? Mi suggeriscono una canzone altrettanto adatta oltre a questa, che è quella di Elio, le storie tese, mio cugino intanto stanno cadendo tutti gli emendamenti sulle quote rosa, io godo, segreto, e io godo, e col io voto godo. Segreto, devi dire. Qualcuno scrive che mancano voti anche del Partito Democratico, perché qualcuno ha del sale in zucca. Qualcuno ha del sale in zucca e non si fa trasportare dalla marea conformista. Dalla marea conformista, vergogna! Ah, vergasso, qualcuno ha ancora del sale in zucca, no, e scusami, dice che però. Cosa? Qualcuno ha ancora non del sale in, zucca, sale in zucca e non dovrebbero... si lascia trasportare dalla siccome marea sono conformista. Degli infami, ma non c'entra niente questo. Dovrebbero almeno avere il coraggio di farlo col voto palese anziché nascondersi dietro il voto segreto. Questi nostri colleghi Roberto maschietti. Da Milano, dai, Roberto da Milano. Ah, buonasera ragazzi, io innanzitutto volevo ringraziare per aver ascoltato in diretta per un bel po' il mitico Gasparri, vero esponente di una politica che ha lanciato l'Italia, perché quando prima di lui eravamo così così, dopo grandeur, grandissimo, grazie, complimenti per avercelo fatto ascoltare, veramente, veramente bello. Detto questo, io vi volevo dire una cosa, perché pure voi parlate delle quote rosa? Lo specchietto per le allodole. Ma certo, ma ho capito Roberto, vogliono ma far parlare delle quote rosa per fare perdere tempo il lodo Alfano quando erano tutti d'accordo, ci hanno messo 5 giorni, ve lo siete scordato o no? È un modo politico per fare altro inciucio. Detto questo, ma che vuol dire che questa volta, gay, scusi, le dovete mettere le quote gay perché ci sono troppi gay ai posti di comando, troppi, e se non sei gay sei tagliato fuori addirittura, dai, su, in certi posti sì, e lo sai pure tu. lo sa pure Valenzo. Quando mai? Ma non dica stupidaggini sui gay che guidano e che comandano e che sarebbero nei posti chiave. Roberto, dai, mettiamo le quote, mettiamole, così poi più di tanti non ce ne posso stare. Eppure questo è il ragionamento, perché allora se me lo fate sulle donne vale per tutto, o no? Va bene, Alessandro da Milano. Quanto? Alessandro? Sono sempre io! Ma chi è, il figlio? Ancora. Sì, sono sempre io. Ma come ci mai? Ci passi il padre. Quanti anni hai? Io 13 ancora. 13, ma com'era su Parenzo quella storia? Quale? C'è qualcuno che ha Che al culo chiacchierato, beh, ma siamo al top qui. Che cos'è che ti piace dice, scusa, non giocare? Cerca di farlo capire bene che si sente male. Beh, io mica ho preso, l'ho chiamato io, ha preso il telefono. Tu giocaci col bambino. È il padre, giusto, bravo. È il padre. Tu giocaci, è giusto col bambino. Bravo. Che cos'ha Parenzo? Il culo chiacchierato, ma secondo me non è vero. Dai. Non è vero, dai, passaci tuo padre un attimo, dai. Va bene. Se no ci mettono in galera qui se parliamo con te. Dai. Bravo, appunto. Dai. Alessandro, numero uno. Pronto, eccoci qui. Attaccalo, Parenzo, attaccalo, attaccalo, se hai coraggio. Attaccalo, perché ha fatto parlare il figlio. Attaccalo. Ma non lo attaccalo. Farlo. Ma perché devo? Ma sono mica la scimmietta tua, dici attaccalo. Dai, quando metti il gettone dentro. Hai il coraggio di dire le cose, dille in faccia le cose. Ma a chi devo dire in faccia? Alessandro, se lui perché ha voluto farlo parlare, lo può far parlare. Ma ti pare che dico quello che vuoi tu? Dico quello che voglio io. Se questo ha voluto far parlare il figlio, va benissimo. Secondo perché me mio figlio vi adora, vi stima. E allora va lì. Bene, a 13 anni va bene. Bravo. Da lì la sera con me ad ascoltarvi. Aspetta Alessandro, aspetta un attimo, resta lì. Pronto? Gianluca, stiamo vincendo questa battaglia sulle quote rosa, la stiamo vincendo. Siamo 4-0, ne manca uno, eh. Ne manca uno in diretta, seguiamo con te la zanzara, seguiamo in diretta, ti sei vestito di bianco. Adesso stanno facendo gli interventi e sto parlando uno del PD. Io ho sempre la mia giacca. Bianca? Giacca sì, bianca. Giacca bianca da cameriere domatore. Grandissimo. Il cerchio di fuoco ce l'hai anche. Che me ne sono messo perché ho fatto il mio intervento, l'avete sentito il mio intervento? Beh, certo, ti hanno quasi zittito, che è successo? Un casino? No, ho fatto un intervento che se tu guardi su Facebook c'è tutto l'intervento dove dico appunto, ho ricordato la Iotti, l'Anselmi, poi ho chiesto anche la Boldrini, ma secondo lei fa il Presidente della Camera per chiedere qualità o perché donna? E lei? È rimasta un po' lì, non so. Ma che stanno votando adesso? Quando finisce? Ancora l'ultimo voto per le quote di genere è questo. Allora, ci sono 5 emendamenti. Tutte sulle quote di genere. I primi 4 ha vinto la linea, diciamo così, mia, tra virgolette, io sono stato il primo firmatario del voto segreto. Sì. Perché altri non lo volevano, io primo firmatario. Ma perché il voto segreto? Perché col voto segreto quelli del PD possono votare contro, diciamo. Certo, è quello, infatti sono andati sotto 4 volte, sì. Adesso c'è un ultimo emendamento, sì. Se anche questo emendamento delle quote di genere vanno sotto, a quel punto il quote di genere va a farsi benedire. Beh, ottimo, ottima questa cosa. Scusa, contrarissimo. Senti una cosa Gianluca, ma nelle quote di genere poi a un certo punto se dovessero passare il posto a certe persone, come si potrebbe trovare in lista? Cioè si dovrebbe introdurre anche una quota gay o no? È quello che ho detto io. Allora perché non c'è la quota per i giovani, la quota per i piccoli come me, la quota per gli omosessuali, per tutto? No tu sei in quota circa Orfei, non ti preoccupare. dice Parenzo, no, tu sei in quota perché c'è in quota circa Orfei, quota dei piccoli, dei nomi. In quota circo Togni, anche tutti i circhi d'Italia sono messi d'accordo chi nominiamo. No, voglio Togni, non voglio Orfei. In quota circo Togni, ma Parenzo potrebbe essere il mio capo, il circo americano. Voglio, ci mettiamo Bonanno, Parenzo, poi ti sparo. Mamma. Quando siamo arrivati alla vittoria ti richiamo, eh? Ok, va bene. Ciao. Alessandro da Milano. Eccomi. Certo, la metà della zanzara la pensa così e l'altra metà no. Abbi pazienza. Alessandro. Ma perché non mettete anche le quote Rom? Così Parenzo è contento. Beh, sa che i Rom rubano meno di alcuni deputati, ad esempio? Ma cioè i Rom, alcuni quelli, anche quelli che rubano il rame, ad esempio, quelli che rubano meno di in termini di denaro, cioè, di quanto hanno rubato alcuni deputati durante l'intera legislatura. Guardi un po'. Tu dici, eh? Beh, tu dici. Questo diciamo, sì. Tu dici. È stato fatto un calcolo? È stato fatto no, un calcolo? Però a spanne si può dire così. Se qualcuno si arrabbierà, sicuramente avrà rubato un Rolex in metropolitana, avranno rubato un portafoglio, avranno scassinato qualche casa. Sì, d'accordo, ma sempre sempre meno rispetto a quanto hanno rubato alcuni deputati. Guarda, Alessandro, che ci vuole dire? No, volevo solo salutare sostanzialmente il discorso delle quote rosa. Per me è una gran cagata, però... Stiamo dicendo addio, infatti. Ciao, ciao, con la manina. Male. Ciao, io, quote rosa, ciao. Ho un'azienda dove il 90% sono donne. Ma e sì. Il posto di lavoro se lo guadagnano e se lo tengono. Non hanno bisogno delle quote rosa. Beh, sono giorni che ci avviciniamo al grande trionfo, eh. Ci avviciniamo al grande trionfo. Rosa, rosa, rosa, se va bene rosa, ma poi invece sta boccia. S'appoggia proprio addosso a me. No! Oh, io certe volte io faccio il tassista, devo spegnere la radio quando sento la zanzara perché i clienti dice: ma che radio è? Radio Parolaccia. Che ha detto che non si può spruzzare lì di lì. Si sa che Parenzo ha il culo chiacchierato a Padova, eh? È ancora a casa, Evo. Prosegue la follia pannelliana. Sigla. Se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Oh, è tornato a parlare di Tibet, eh? Per il 55esimo anniversario dell'insurrezione di Lhasa. È dolce il suo respiro. Ah, siamo al top, eh? Senti, senti. Distanze enormi sembrano. Liberare gli Han! Più libertà per gli Han! Più libertà e non con violenza. Più libertà per gli Han. E allora potremo dire noi tibetani, noi cinesi, onorari al massimo. Noi che non dimentichiamo le Cine. Capito? Le Cine, certo, perché c'è un po' di Cina anche in Italia, ha ragione. Senti, sto cercando il Dalai Lama per ringraziarlo, ma di cosa? Dalai Lama, ti sto cercando in questi giorni per ringraziarti per questa scelta favolosa, davvero, che ha trascinato con sé anche quello degli Uiguri, facendo di loro anche alleati e vicini ai tibetani, anche paciferi concretamente. Dai, su. Gli Uiguri, no, gli Uiguri, però, gli Hanno, gli Uiguri, però, dai. Perché qui sono popoli perseguitati. Dai, mentre l'Italia è invischiata in discussioni, sì, sul cuneo fiscale, sulla riduzione delle tasse. Dell'indipendentismo degli Uiguri. Dai, su, questo parla di Uiguri, del Dalai Lama, degli Han, dai. Basta, fermatelo. Senti, mi dicevano che mi davano la cittadinanza tibetana. Dai. E si disse: quando saremo indipendenti avrai la cittadinanza onoraria subito. Io ho risposto: e se già adesso mi consideraste come uno di voi, uno di noi. Tutte le idee si affollano. Giuseppe Avellino. Ciao Giuseppe, ti ringrazio che mi hai interpellato. Comunque vorrei sentire ogni tanto quella frase che dice quel signore che la zanzara è come stare al bar. Però io intervenivo per quanto riguarda le donne che vogliono lavorare lì. Ma è mai possibile che le donne tutto vogliono fare al di fuori della mamma, dalla moglie, dall'amante, dalla casalinga? Tutto vogliono fare un sacco di cose, ma al di fuori di questo. Poi, secondo luogo, non ho capito. E questo vuole donne, cioè, a casa. Ci sono troppe donne che lavorano. Donne che lavorano, bene, Giuseppe. Ci sono tanti uomini in mezzo alla strada. Facciamo lavorare gli uomini che sono potenziali delinquenti. No, non ho capito bene il ragionamento. No. Perché l'uomo, se non lavora, non c'ha i soldi, viene rifiutato dalla donna. Ah, ho capito. Cioè, secondo lei bisogna dare lavoro prima agli uomini. Ma penso di sì, perché io. E gli uomini e le donne? Ma sì, devono lavorare pure le donne che hanno quella necessità. Grazie. Devono essere i primi privilegiate, devono essere. Ma non ho capito. Ma c'è una donna e uomini che lavorano in famiglia, che guadagnano un sacco di soldi e poi a sua volta sono tanti uomini che stanno a mezzo alla strada. Ma non ho capito, Parenzo, hai capito? Voglio dire questo, voglio dire scusa, abbi pazienza. Sì, dimmi. Ci sono troppi uomini che stanno a mezzo alla strada, troppe donne che lavorano. Ah, ho capito, troppe donne che lavorano e uomini. Non risulta cercare, dalle statistiche, caro Giuseppe. In qualche occasione, in qualche diciamo così, in un certo senso. Che l'uomo può sostituire la donna, non la donna può sostituire l'uomo. Capito, Parenzo? Hai capito la lezione? Non è proprio chiarissimo quel che va dice, bene, Giuseppe, Parenzo. Forse chiedo scusa, sono tanto emozionato. Chiedo scusa, scusi. Sì. No, prego, esempio, prego. Avellino, qui ci sono una fabbrica, ci sono la fabbrica FMA, non so, della Fiat. Sì, per carità. Tra poco lavorano più donne che uomini dentro lì. E le donne non fanno niente, non fanno niente. E dunque che bisogna fare? Cacciarle mentre gli uomini... Ma io dico che cacciarle, le donne che hanno bisogno bisogna aiutarle. Sì. Ma ci sono tante famiglie, sai, che sono, lavorano uomini, certo, marito e moglie, carità. Che lavorano... Privilegiamo quello che... Privilegiamo. L'uomo che non sta a mezzo alla strada. Per carità, Giuseppe, grazie. Eleonora, Lucca. Sì, Cruciani, dica. Buonasera. Vada. Buonasera. Vai. Ascolti, niente, io volevo fare un appello a Renzi. Volevo chiedere se era possibile fare un corso di sessuologia a tutti i parlamentari. Cioè? Cioè, praticamente è assurdo che una persona che sia al governo non sappia la differenza tra identità sessuale e identità di genere. Cioè, io sono una donna, come donna, che io vado a letto con le donne o con gli uomini, io ho bisogno di una donna, non ho bisogno di un uomo. Che cazzo... scusi, il discorso è... Il discorso che un uomo gay non può essere votato insieme a una donna, ma che discorsi fanno? Quello è Gasparri, però. Eh? Sì, Gasparri, sì, scusi, Gasparri, ma che sono cose dell'altro mondo? Abbastanza. Eleonora, questo ha detto. Ha detto, dove mettiamo poi alcuni candidati che sono omosessuali? Come? Questo ha detto prima, dove li mettiamo alcuni candidati che sono omosessuali? Omosessuali uomini sono uomini e omosessuali donne sono donne, ma ecco. Che discorsi fanno? Cioè, nel senso, siamo veramente governati, forse questi sono i problemi dell'Italia di oggi, a parte soldi eccetera eccetera eccetera, però i problemi questi qui, perché non si riesce a risolvere il problema dell'omosessualità, tutti questi discorsi qua, perché c'è un'ignoranza di fondo spaventosa. Che io debba essere governata da gente del genere è veramente fuori dal mondo. Ma lei come si posiziona dal punto di vista eterosessuale oppure... No, io sono omosessuale. È omosessuale, cioè è lesbica lei, diciamo la verità. Esattamente, sì. Ma è sempre stata omosessuale, uomo o donna, si dice omosessuale. Io lo so, un attimo solo, aspetti un attimo, ferma. Prego. Allora, io non ho capito, ma lei è sempre stata lesbica? Sì. Sempre? Non ha mai attraversato un momento di eterosessualità? Sì, vabbè, quando ero ragazzina. Che ne so, cioè, ha mai avuto un uomo? Sì, quando ero ragazzina. Cioè, però non ha mai avuto rapporti sessuali con uomini? No, ma è curiosa questa cosa. No, ne ho avuti. Vabbè. Sì, assolutamente. Però poi a un certo punto... posso parlare comunque anche per esperienza. Ho deciso dove stare quando mi sono sentita giusta di dove stare. A un certo punto ha deciso e non ha più avuto rapporti con uomini. Assolutamente, non è una cosa che mi interessa e quindi comunque sia sono donna, sì. Nel senso, io ho bisogno di tutte le altre donne, non è un discorso che se vado con le donne c'ho bisogno dell'uomo, io di sicuro c'ho da farmi la barba e c'ho la prostatite, quello è poco ma sicuro. Beh certo, assolutamente. Ecco. Ma perché a un certo punto ha preferito le donne? E che ne so, che sono così. E che ne so, ci sarà stato che ne so, un qualcosa oppure così. A un certo punto ha deciso che le piacevano di più le donne. A un certo punto ho capito che non era la mia strada, ho scelto la mia. E in famiglia com'è andata? Benissimo, tutto bene. Genitori, per fortuna una famiglia molto intelligente. Meno male. Molto intelligente, una persona molto fortunata sotto quel punto di vista lì. Al contrario di tante altre persone che mi dispiace per loro, che non vengono assolutamente capite. C'è una differenza però nel modo in cui vengono prese le lesbiche rispetto agli omosessuali, eh? Sicuramente, dai padri c'è molto, secondo me c'è molto più difficoltà a accettare un ragazzo che una ragazza. Ah, cioè lei dice che è più facile per le ragazze? Quello sicuramente. Ha chiuso, che è successo? Salvatore da Bari. Pronto? Sì. Scusa, aspetta un attimo che tolgo il viva voce. Meno male, va. Buono questa cosa. Senti? Sì, ti sentiamo. Allora, buonasera, prima di tutto. Io volevo sapere soltanto una cosa. Per quale motivo Berlusconi è stato dichiarato delinquente e quant'altro? E tutte le radio, tutte le televisioni continuano a parlare tutti i giorni, in tutti i telegiornali di questo Cristo, di Cristiano. Per regolare questo... Vabbè, ma si parla perché Berlusconi è il capo dell'opposizione, è il capo del partito di Forza Italia. Ok, secondo lei dovrebbe essere messo al bando? Dovrebbe essere messo al bando? 20 anni. sono sì, ma si arrenda, si arrenda però, si arrenda. Si deve arrendere, sì, secondo me lei quindi si deve arrendere. Lo dobbiamo prendere in quel posto, nonostante tutto. Ma non in quel posto. Per quanto riguarda le donne in Parlamento. Un attimo, aspetta. Sì, pronto? Maschio 100%? Sono io. Salve. Eccoci qui, Cruciani, come stai? Ciao Crucia, oh, beh, oh. Cruciani, grande. Grandissimo. Abbiamo vinto, grande. Chi sono contento. Ci stavo seguendo, no? Noi maschilisti, maschi. No, io veramente, scusa, mi hai detto, io sono contrario alle quote rosa, perché non è che posso essere a possiete trovati. Ma io sono il capo del maschilismo mondiale, cioè sono il capo spirituale di tutti i parlamentari maschi che hanno giustamente votato contro questa altro dittatura femminazista che stava mette al 50% della terra. Quindi è ovvio che tu stai parlando con il caro Cruciani, con insomma con il leader dell'ispiratore, con l'ispiratore di quello che sta succedendo in Parlamento. Sì, diciamo, io sono il padre di tutti i politici maschi che ringrazio pubblicamente, che hanno votato, ovviamente a partire da Berlusconi, ma anche i maschi del PD che hanno comunque capito il pericolo rosa. Che il pericolo lei dice nel segreto dell'urna. Nel segreto dell'urna. Bravissimi. Ma di che cosa vive il signor Maschio? No, le donne, le parlamentari li avrebbero uccisi, avrebbero fatto il maschicidio. Addirittura, dai, Marino. Il segreto dell'urna, meno male che c'è stato il segreto dell'urna. Allora, stiamo parlando con Salvatore Marino, maschio 100%, teorico del neomaschilismo, caro Parenzo. Leader, prego. Leader, no, scusi, Ah, leader. Leader. Oh, leader. Che onore parlare con il leader. Ho capito, il leader. Cosa vuoi dire, Parenzo? Senta, no, volevo capire intanto due cose, il leader del momento. Intanto quanto sono i tesserati a questo movimento, visto che lei è il leader. Carissimo Parenzo, grandi maschi al 100%, innanzitutto brindiamo alla bocciatura delle quote rosa. Vabbè, ancora non è si calmi un attimo, intanto signor maschio 100%. Dio esiste, sì. Dio si calmi, maschio, leader, donna, sì. Leader, allora, leader del movimento. Quanti sono gli iscritti alla sua associazione, diciamo? Beh, più o meno 30.000 iscritti, 30.000. Ma dall'estero, anche dall'estero, e anche dalla Russia, perché io sono filo Putin, filo maschilista. Beh, questo lo sa il signor Putin questo? Perché secondo me sì, è l'unica cosa che si può preoccupare. Russia News, praticamente, c'è un mio amico dell'ambasciata di un partito politico, Lega Maschio 100%. Lega Usonia, posso anche dirlo. Guardi, Putin avrà tutti i difetti del mondo, io non sono mai stato qui a difenderlo, ma sono sicuro di una cosa, che il signor Putin, se sapesse che nel mondo, in particolare non so neanche da dove cazzo trasmette Italia. Se sapesse, Lignini, il mio amico Putin, senatore Legnini, io lo amico. Detesto, ecco, al povero Legnini anche quello lì, se Speriamo, sapesse, no, io conosco, abbiamo fatto dei confronti, ma politici, no, guardi, si prende la querela per diffamazione da Legnini, non dica, no, che no, lo conosce, perché se Putin sapesse che esiste uno come lei sulla faccia della terra, secondo me anche Putin potrebbe avere un malore per questo. No, ma io sono inviato da Dio, e qui, anzi, addirittura lui magari si è ispirato Marino. A me sulle leggi contro l'omosessuale, magari si è ispirato a me Putin. Ma perché oltre che con le donne lei c'ha pure con gli omosessuali. Ma io ho fatto interviste sulla BBC, sulla... Ma quale BBC? Sì, cioè, BBC. Ma no, ho fatto interviste per anche in Francia, ho fatto interviste internazionali, quindi è ovvio che Putin, poi i miei siti sono maschilismo.it, maschilismo.org, frequentatissimo. Sono in tutto il mondo. Non c'è dubbio, Comunque, la mattina si sveglia nella Dacia e dice: vediamo cosa scrive il signor maschilismo 100%. Ma sono sicuro che è così. Guardi, dai, Marino. No, comunque, vabbè, io certo non è che sono un megalomane, però è ovvio che sono conosciuto a livello. Ma ovvio, tra una repressione in Ucraina e un altro interventino, è evidente. Scusi, che... per lei la donna che cos'è? Marino, ma per diciamo... me la donna, appunto, come dicevo, anche un radioascoltatore vostro che vi seguo spesso, complimenti, ha detto che la donna deve cominciare a stare un po' a casa, calme. Al calduccio, fare le mamme, magari non a uccidere le tre figlie femmine. No, vabbè, adesso cioè, Marino, le donne devono ritrovare a stare un po' a casa, perché già non fanno i danni nella società e nelle famiglie e dei padri separati. Ma lei che società al Parlamento, le donne al Parlamento sono pericolose. Già ci abbiamo 8 ministre donne. Voglio vedere, le sto aspettando a vedere quello che faranno. Cioè, perché secondo lei in Parlamento Renzi, io mi sono dissociato, ho diffidato il governo Renzi a governarmi. Ma perché tu perché trevano hai detto, tutti? 8 donne sono superiori ai maschi. Quindi qui in fondo, già purtroppo la donna ha più potere politico e giudiziario dell'uomo. Sì, quindi una donna parlamentare purtroppo vale già il doppio di un uomo. Quindi io direi direi di ridurre la presenza del 30% delle quote rosa. Assolutamente. Già il 10% ma lei non vorrebbe nessuna donna in Parlamento, diciamo la verità. Io sì, io le vorrei a casa fare le mamme, perché Dio, nella Bibbia c'è scritto che la donna sia costumata e fedele, il capo della donna è l'uomo, il capo dell'uomo è Cristo. E, quindi, cioè, com'è la cosa? Cristo. Perché le donne fanno danni. Il capo del reparto che si prenderà cura di lei vedrà che si chiama. Sono violente, sono. Parliamo di maschicidi, parliamo di quanti maschicidi erano ammazzati dai, su. Quindi, ma questo parliamo, del primario che l'ha rimessa in libertà invece. Parliamo di quel medico che ha firmato il foglio dicendo che lei stava bene. Parliamo di quel medico lì invece. Parliamo del medico che ha firmato il nulla osta perché lei uscisse fuori. Parliamo di quel medico. Invece politicamente di cercare di usare la sanità. Mi dia il numero del medico che ha firmato il foglio. Benissimo di cervello, sto benissimo. Io sono un seguace di San Paolo di Tarso a sua insaputa, però è seguace. Seguo il maschilismo della Corano e della Torah ebraica che dice: ti ringrazio Dio, l'ebreo ortodosso, di non avermi creato donna. Ma perché l'hanno messo l'ebreo ortodosso, come anche nel Corano e nella Bibbia. Quindi il mio maschilismo nasce dalla religione. Ma ha visto quelle che si sono vestite di bianco oggi in Parlamento? Sì, ma quelle sono delle nazi femministe. Ma dai, ma quale nazi femministe? Che volevano fare un altro colpo di Stato per mettersi il 50%, poi ci mettevano il 70%, perché loro vogliono fare fuori, come ha detto anche la Mussolini una volta. Ma lei è peggio di Barnard, lei è peggio di Barnard. Il 70% delle donne e il 30% di maschi, e purtroppo fra poco hanno fatto bene a votare, altrimenti quelli prendevano il 100% del Parlamento, e per noi ci sarebbe l'olocausto, la Shoah dei maschi. Mi sembra che lei sta fermiamo le donne dovunque. Mi sembra che lei sta godendo, caro. Sto godendo alla grande, proprio grande. Ringrazio tutti i maschi del Parlamento, del PDL, Berlusconi, ringrazio l'amico Silvio, spero di fare una bella mangiata insieme, di brindare proprio in modo, cioè, immagini dice, Berlusconi insieme con macismo. E che poi Napolitano ha detto il sessismo è un virus, e io aggiungo, ma il femminismo è sessismo. Ciao Marino, a presto. No. Ciao. Ragazzi, purtroppo dobbiamo finire. Marco da Roma, dai Marco, forza. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dimmi. Complimenti per la trasmissione. Vai, veloce. Sì, sono favorevole alle quote rosa. Sono favorevole perché credo che un paese civile comunque debba garantire tutte le sue rappresentanze. Vabbè, ma questo intervento così banale alla fine della trasmissione non ci voleva però. Le rappresentanze, però, allora diamola a tutti la rappresentanza in Parlamento. Il Parlamento è un'altra cosa. Allora io credo che volere a tutti i costi il 50% e il 50% sia impossibile, anche perché potrebbe non rispecchiare le vere capacità delle persone nel territorio. Che noia, però, che noia. Che un sesso non possa superare l'altro del 60%, secondo me questa è una cosa giusta e intelligente. Cioè che noia, a domani 18:30, ciao, che noia. Voi della zanzara, incominciate a essere rincoglioniti, Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Prendato, che ormai è tutto finito.